Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Se ci ascoltate in tarda serata alle 20.45, vi auguro ovviamente di terminare bene la giornata. Allora vi ricordo la mail, che è unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Il blog si chiama Guardie o Ladri. Chi ci segue sa che alcune settimane fa abbiamo dedicato due puntate alle vicende che stanno contraddistinguendo ormai da mesi, diremo quasi da un anno e passa, l'Istituto Papa Giovanni XXIII a Serra d'Aiello. Ci troviamo nel Cosentino. Allora, più di un anno fa ci sono stati arresti che hanno coinvolto anche prelati, preti, sacerdoti che gestivano questo istituto che raccoglie persone disabili mentali, alcuni anche senza famiglia. Ma questo istituto è tornato nuovamente agli onori della cronaca perché alcune settimane fa ci sono stati degli sgombri forzati e forzosi. Circa 300 persone. Sono state scene veramente, possiamo dirlo, disgustose, quelle viste alla TV, con blitz della polizia, isteriche scene di molti parenti che urlavano e strepitavano. Certo, urlare e strepitare non porta un granché, però in ogni caso bisognava tenere alta l'attenzione. Noi, come sapete, abbiamo ricevuto alcune lettere e quindi abbiamo cominciato a parlarne. In questi giorni ne abbiamo ricevuto un'altra, scritta di getto, così come lo dicono, testimoniano loro stessi, una lettera da una coppia, la famiglia Mercuri, Fabio e Cristina Mercuri, che hanno voluto raccontare a Radio 24 la storia che vedeva, come dire, interessata, brutalmente interessata, Maria Chiara Mercuri. E per questo abbiamo deciso di continuare a tenere alti i riflettori, continuare a parlarne, perché poi il bello, anzi il brutto della nostra professione, della professione dei giornalisti, è quando ne parlano tutti, tenere i riflettori accesi, poi i riflettori si spengono. No, non è così, non può essere così in queste vicende. Io quindi do il buongiorno a Cristina Mercuri. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la vostra lettera, devo dire, mi ha colpito, l'ho letta attentamente ed è drammatica. Sa cosa mi ha colpito soprattutto? Glielo dico chiaramente, in maniera tale che possiamo partire da qui con il nostro discorso. Il fatto che voi casualmente abbiate scoperto dove era stata portata ospite Maria Chiara Mercuri. Come lo avete scoperto? Esatto, cioè casualmente, ma diciamo il 17 marzo stesso, cioè la mattina in cui poi c'è stata questa operazione, questo blitz all'Istituto Papa Giovanni, noi non eravamo assolutamente al corrente, quindi accendendo la radio la mattina alle 8.30 al TG, insomma, della radio, sì, ho appreso appunto che stava venendo lo sgombero su all'istituto, giù anzi. Certo, in Calabria. Quindi in Calabria, quindi mi sono messa subito in contatto con mio suocero, perché appunto io sono diciamo la cognata della persona, sì, direttamente interessata dell'istituto. E quindi mio suocero ha tentato di chiamare l'istituto per l'istituto giù, ma nessuno rispondeva. Quindi durante la mattinata abbiamo provato, tentando, diciamo, chiamate vari carabinieri e stazioni di polizia. Alla fine siamo arrivati alla procura di Cosenza e da lì alla ASL. Ecco. L'ASL di Cosenza che continuava a dirci: non vi preoccupate, è tutto sotto controllo, vi faremo sapere dove verrà condotta la persona. Ecco, io la interrompo un attimo, perché nel frattempo, in questa ignobile storia italiana, che veramente non ha nulla di edificante, i giornali stanno continuando a parlarne. Ricorderete, i giornali locali intendo dire, quelli nazionali hanno già spento i riflettori, già detto, già fatto. I giornali locali stanno continuando a scavare su alcuni aspetti che erano venuti alla luce, vale a dire che ci sarebbero dei pazienti scomparsi. Vi leggo il titolo della Gazzetta del Sud del 26 marzo, che recita: blitz alla ricerca dei pazienti scomparsi, individuati dei loculi sospetti. Sulle lapidi non sono indicate le generalità dei defunti e le date dei decessi. Il 27 marzo, sempre la Gazzetta del Sud titola: il cimitero dei misteri dei loculi senza nome. La magistratura cerca tracce dei degenti scomparsi misteriosamente negli ultimi 15 anni. Insomma, ce n'è abbastanza per un film dell'horror. Torniamo alla cognata di Maria Chiara Mercuri, la signora Cristina. Proseguiamo nel nostro discorso, Cristina. Un'altra cosa che mi colpisce della vostra lettera è che voi a un certo punto, quindi sapete dove viene, dove è stata ricoverata Maria Chiara Mercuri, ma non aveva con sé né documenti di identità né tessere sanitarie. Insomma, era stata come deportata. Esatto, esatto, questa è l'impressione che abbiamo avuto. Noi tra l'altro siamo riusciti a sapere il giorno successivo, quindi passate già le 24 ore, diciamo dal 17, cioè dalla mattina del trasferimento. Quindi diciamo intorno alle 16 del giorno successivo, ma dopo diverse telefonate alla ASL di Cosenza che cercava invano diciamo di tranquillizzarci. Io avevo chiesto anche la lista degli istituti, dico se non potete dirmi esattamente in quale istituto si trova, datemi l'elenco di tutti gli istituti che avete appunto contattato per i trasferimenti e poi saremo noi a cercarla. Ecco, io non vorrei ricordare ed evocare scene apocalittiche. Sapete che il sensazionalismo non mi appartiene. Anzi, prima condannavo le scene di disperazione isterica fuori dall'istituto Papa Giovanni XXIII, quindi. Però vi leggo questo brano scritto da Fabio Mercuri, il marito di Cristina, quindi il fratello della persona coinvolta. Scrive: ci hanno confessato sarebbero le persone che sono state poi visitate in questo istituto dove erano state ricoverate, che sono state costrette a scattare delle foto di ognuno degli ospiti e ciascun ospite teneva tra le mani un foglio con il proprio nome, versione confermata anche appunto dalla sorella Maria Chiara. Insomma, francamente, secondo me così non si trattano nemmeno le bestie, credo, no Cristina? Esatto, infatti è la cosa che c'ha veramente... Ma posso anche capire il fatto che siano stati poi costretti, diciamo, l'istituto dove poi si sono ritrovati ad ospitare questa cinquantina di persone, perché poi sembra che più di 50 persone siano state trasferite lì dall'istituto dal Papa Giovanni. Sì, sì, sì. Quindi, sì. Il problema è che loro non sapevano chi fossero queste persone, in qualche modo hanno dovuto identificarle. Certo, qui è ma tutto... come non è venuto in mente prima diciamo, di organizzarla la cosa, cioè di assegnare ad ognuno il proprio documento, magari anche attaccando un bigliettino, non so come, però... Sì, come si fa con i cani, già che ci stavamo si poteva mettere una targhetta, no? Così almeno uno lo leggeva facilmente. O comunque mettere, sì, oppure dare una borsettina di plastica con le cose, con i propri documenti, anche proprio degli effetti personali, perché certo. Anche specificato nella lettera, loro sono dati via senza neanche... Ecco, ma infatti adesso ci arriviamo. Ovviamente il paradosso che ho usato della targhetta, prendendolo nel senso giusto, è un paradosso che serve soltanto per mettere in evidenza questa situazione drammatica, non certo perché avrebbero dovuto essere trattati come i cani, ci mancherebbe altro. Veniamo agli effetti personali. Allora, ad un certo punto voi decidete di portare fuori Maria Chiara da questo istituto e, visto che non aveva nulla con sé, e andate in un centro commerciale e cominciate a trovare spazzolini, dentifrici, abbigliamento intimo, perché era soltanto con un pigiama. Anche se è giusto metterlo in evidenza, voi scrivete che non è che era stata trattata male, anzi era in uno stato decente, era pulita, quindi per carità di Dio era stata rispettata la dignità dell'uomo, però la portate fuori. Ecco, ma allora adesso la situazione qual è, signora Mercuri? Allora, noi l'abbiamo, diciamo che era già programmato tra l'altro la nostra visita giù, ogni tanto andiamo a trovare Maria Chiara. Certo. Quindi l'abbiamo portata su una settimana a Roma perché stiamo comunque tentando un riavvicinamento diciamo nella nostra regione, perché comunque è piuttosto complicato ogni volta il trasferimento giù, quindi era già diciamo per noi pianificato questo. Sì. Personalmente nella nostra famiglia. Certo. Quindi noi abbiamo preso Maria Chiara poi il venerdì successivo, quindi il 20 marzo siamo scesi giù e il 21 Maria Chiara era con noi a Roma. Ecco, tanto per dare un'idea, è uscita da questo istituto con addosso la giacca proprio della signora che state sentendo, la signora Cristina, quindi il fratello ha preso la giacca dalla moglie, gliel'ha messa addosso e l'ha portata fuori dall'istituto. I vostri passi adesso, Mercuri, indipendentemente dal fatto di trovare una collocazione più vicina alla sorella di suo marito, quali saranno? Da parte nostra c'è una, se parliamo dell'istituto Giovanni, se di questo sì, se questa sì, domanda sì. Diciamo che c'è molto disorientamento. Noi siamo in contatto con il forum salute mentale della Calabria, che poi casualmente abbiamo conosciuto gli amministratori di sostegno dell'istituto sì. E quindi con loro siamo in contatto. Avete iniziato un percorso comune. Allora io la fermo qui, signora Mercuri. La ringrazio del suo intervento perché mi ha dato l'assist ideale, perché ha parlato del forum di salute mentale. Da allora noi domani avremo con noi ospite una persona che ne fa parte e che proprio del sostegno alle persone psichicamente labili, ospiti in questo istituto, ha fatto una ragione di vita, Don Giacomo Panizza. Lo sentiremo domani. Nel frattempo dico grazie a Fabio Cantatori in regia e a Laura Faggini in studio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.